viaggi di sangue arterioso, morte che non segna percorsi. Salvezze sperate ma economizzate, morte in Africa, morte tremenda, mine italiane mietono vite, armi USA incatenano guerriglie, scherzi nucleari dalla Francia regalati, poca informazione ci copre il dolore. Morte in Congo, morte in Burundi, morte in Somalia. Morte in Congo, morte in Burundi, morte in Somalia. Morte convulse in bagni di sangue, cure scadute ed economizzate. Padri su padroni bruttano pressi ormai tarassati. Sangue afro, sangue di fratelli, sgozzola pian piano, sangue infetto, sangue infetto, sangue morente. Morte alla morte, morte alla morte nera in Africa, morte alla morte nera in Africa, morte alla morte nera in Africa. Morte in Congo, morte in Burundi, morte in Somalia. Morte in Congo, morte in Burundi, morte in Somalia. Morte alla morte, morte alla morte, morte alla morte, morte alla morte, morte alla morte, morte alla morte, morte alla morte.